Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, eccoci qui in diretta in questo sabato 17 di ottobre, sono le 10:09 primi 33 secondi, dagli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per questa puntata in diretta dei Conti della Belva, che ha un argomento solo, standard per così dire, visto che comprende praticamente tutta la politica economica di finanza pubblica italiana. Ovviamente in questa puntata parliamo dei conti della Belva all'esame, per così dire, della legge di stabilità, o per meglio dire, quello che abbiamo potuto capire fino a questo momento della legge di stabilità, che è stata annunciata l'altro ieri in 25 tweet, neanche le slide, ormai le slide sono troppo lunghe, in 25 tweet dal Presidente del Consiglio. E noi giornalisti da ieri stiamo, per così dire, tentando di capire se le bozze di cui siamo entrati in possesso e che sono comunque state ufficialmente smentite e che sono comunque incomplete di numeri, senza tabelle eccetera eccetera, sono comunque un brogliaccio su cui poter lavorare, ma per il momento di ufficiale ci sono solo queste 25 tweet. Tuttavia i 25 tweet danno l'idea di fondo, e allora nell'occuparci di riflettere su alcuni punti di fondo io vi invito a chiamarci all'800 24 00 24 per dirci cosa pensate di alcuni punti di fondo della legge di stabilità, che io adesso qua vi richiamo solo alla mente, per dirci all'800 24 00 24 se vi piacciono, se siete favorevoli, se siete contrari. Nel frattempo abbiamo Mario Seminerio collegato per far salutare i nostri ascoltatori e far capire che sia pure a telefono è con noi oggi. Compare, ci sei? Sono qua, buongiorno Oscar, buongiorno agli ascoltatori. Ok, io ricordo a tutti che come sempre all'inizio della trasmissione, del blocco successivo alla sintesi che adesso faccio della legge di stabilità, noi cominciamo con il punto di Mario Seminerio. Iniziamo con Mario Seminerio a sentire la sua opinione alla luce degli andamenti dell'economia e delle scelte di fondo della legge di stabilità. Mario resta collegato con noi poi tutta la trasmissione per intervenire. Carlo Alberto Carnevale Maffè invece oggi è impegnato sul lavoro, Renato Cifarelli ci raggiunge dopo. Ma vi faccio una serie di domande, cari ascoltatori, per consentirvi di decidere come intervenire. Naturalmente poi avremo molti ospiti per sentire la loro opinione, avremo Filippo Taddei, responsabile nazionale economia del PD, per sentire l'opinione ufficiale quindi del governo e del PD sulla manovra, avremo il segretario confederale della UIL Guglielmo Loi, perché per capire il sindacato come la vede sul lavoro, sul settore pubblico, agevolazioni che continuano, seppur tagliate, alla decontribuzione per gli occupati, il Jobs Act per il lavoro autonomo. Poi avremo con noi il direttore dell'ufficio studi della Confcommercio, cioè una forte priorità dichiarata dal governo a favore dei consumi, sentiamo come la pensa i commercianti. E poi un capitolo che manca dopo tante promesse è quello del sud, e quindi avremo anche questo focus sul mezzogiorno trascurato ancora una volta, e sarà con noi Gianfranco Viesti che insegna economia all'università di Bari. Ma oltre a questi ospiti vi chiedo, cari ascoltatori, secondo voi è giusto fare una legge di stabilità che spazza via dall'orizzonte politico per tutta la legislatura, chissà per quanto tempo, il tema che ci trascinavamo a chiacchiere da tanto tempo, cioè i tagli di spesa? Perché vi spiegheremo tra poco che in realtà anche i 5,8 miliardi di tagli di spesa non sono affatto tagli di spesa, se uno ha idea di come funziona il bilancio pubblico. E però soprattutto la scelta di Renzi è basta, non si fanno più tagli di spesa, non ne parliamo. È giusto secondo voi? È giusto che quando l'economia riparte si alzi il deficit? Seconda pillola di informazione, guardate che nel testo che gira e che il MEF ieri non ha potuto smentire, anche nella versione non accessoriata, come ha detto Renzi, cioè quella con il deficit al 2,2% e non al 2,4% perché è aperta la trattativa con l'Europa sulla cosiddetta clausola migranti, che poi serve a tutt'altro e non serve ai migranti, ma anche nella versione non accessoriata mancano ancora più di 3 miliardi di copertura, quindi in realtà anche la versione non accessoriata ha un deficit già al 2,4%, se ci danno il 2,4% andiamo al 2,6% e così via. È giusto secondo voi? È giusto cioè limitarsi alle clausole di salvaguardia del 2016 e facendo tanto deficit lasciare quelle del 2017 e 2018 che se le cose vanno male poi sono cavoli per chi resta? Poi è giusto continuare a concentrare tanti incentivi su tutti i nuovi contratti e non su quelli aggiuntivi, sull'ordo? Cioè è giusto non riflettere sul fatto che ci è costato 10 miliardi avere solo 91.000 contratti a tempo a tutte le crescenti al netto in più in 8 mesi? È tanta, no? E continuiamo a dare gli incentivi, sia pur ridotti al 40% all'ordo di tutti dell'occupazione invece che al netto aggiuntivo. È giusto? Le imprese dicono di sì, ma chiedo a voi, è giusto concentrare un potenziamento così forte degli incentivi agli investimenti? Il famoso 140% invece del 100% in ammortamento, ma anche in quel caso con tutti gli investimenti lordi e non quelli netti aggiuntivi? Perché è giusto abolire IMU TASI su prima casa invece che utilizzare quei 5 miliardi per l'abbattimento IRAP, perché questo secondo avrebbe un effetto più diretto e più immediato sul PIL potenziale, mentre il primo è scelto dal governo e dichiarato nella consapevolezza che non aggiunge molto al PIL, ma che però serve ad assicurare la fiducia degli italiani e a far per questo crescere i consumi? È giusto mettere il canone RAI in bolletta? Voi che dite? Il pacchetto sugli autonomi, ve lo spiegheremo, è un pacchetto in effetti che è una delle parti migliori a mio giudizio della legge di stabilità, quindi se siete lavoratori autonomi e se avete capito di che si tratta, chiamateci pure. È giusto mettere 200 milioni per i contratti pubblici dopo 6 anni di blocco? È giusto promettere tanti prepensionamenti e poi arrivare il giorno dopo alla presentazione della legge di stabilità e dire che non ci sono neanche soldini per alzare la no tax area dei pensionati oltre i 75 anni, come promesso il giorno prima dal 2016 farla salire da 7 a 8 mila euro e dire invece poi il giorno dopo no veramente è per il 2017? Ecco, io ho buttato lì un po' di temi. Ora ci sentiamo tra un minuto e iniziamo con Mario a entrare nel dettaglio, ma voi intanto chiamateci perché le telefonate le mandiamo in diretta senza farvi aspettare quando arrivano all'800240024. A tra un minuto. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it vi presenta della belva. Informo la regia che non c'ho la messa in onda, quindi ecco, sì, me l'avete rimessa a posto. Allora, una premessa ancora con Giannino e Mario Seminerio qui collegato in questa edizione dei Conti della Belva, ristretta come numero di compari ma allargata a tutti i temi della legge di stabilità. Sì, io devo a voi ascoltatori anche un chiarimento, perché io considero l'intervista che ho fatto per quota parte ieri al Presidente del Consiglio Matteo Renzi una delle peggiori prove professionali della mia vita. Cioè io ne sono uscito veramente incazzato come una iena. Presidente del Consiglio, io gliene do atto, aveva scelto lui di venire da noi e non a Radio Rai, secondo me dovevamo sfruttare meglio l'occasione. Il problema è che un'intervista non si può fare, per così dire, seguendo due fili diversi, perché a quel punto l'interlocutore, anche se non è molto abile, vince, e figuriamoci uno abilissimo come Renzi. Il problema non è vincere o perdere, ma io mi sono trovato nella condizione, lo dichiaro, colpa mia e non me la prendo con nessun altro, di non poter impostare la faccenda sui miei temi. Ho reso un pessimo servizio alle idee di cui sono convinto e di fatto secondo me io ho fatto anche un pessimo servizio agli ascoltatori. Mi interrogo profondamente, devo dire, su quello che è successo ieri, perché non mi era mai capitato e le interviste a tre si possono fare se i due che intervistano hanno un'omogeneità. La colpa non è di Alino Milan, la colpa è che sono evidentemente io con le mie idee fuori posto. È un peccato, quindi ieri il Presidente del Consiglio ha potuto dire solo quello che voleva, cioè dire che lui la legge di stabilità la rispedisce indietro, perché noi non insistevamo sui temi, ognuno dovendo alternare le domande cambiava il tema, e a quel punto lui dice quello che vuole e se ne va. Colpa mia, perché meglio stare zitti piuttosto che sbagliare, questo è... Ed è una cosa che mi pesa molto, perché io ho la trasmissione con Nino Milan, la mattina tengo molto, però ieri abbiamo, secondo me, io ho l'onestà di dire che abbiamo perso una grande occasione e non abbiamo reso un grande servizio. E mi dispiace se Nino si offende, ma io lo dico per fedeltà ai nostri ascoltatori. Mi metto la cena sul capo. Allora, cominciamo con Mario Pantaloni. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Eccoci Mario, che dici? Quali sono le tue opinioni generali sull'impianto di quello che abbiamo capito di questa legge di stabilità? Ma io non sono rimasto stupito, nel senso che questa legge di stabilità è effettivamente il seguito di quello che era stato incardinato con la nota di aggiornamento del DEF. Sapevamo che la spending review sarebbe di fatto stata accantonata. Abbiamo una pioggia, diciamo, di misure, alcune piuttosto ampie e interessanti, ma ancora, diciamo, indeterminate nel senso operativo, come quelle sul cosiddetto Jobs Act dei lavori autonomi, che sono interessanti, come hai detto tu. Abbiamo altre misure, come per esempio quello che viene definito il decalage della decontribuzione per le assunzioni con nuovo contratto a tutele crescenti, che sono utili, nel senso che sono necessarie, perché passare da 100 a 0 in un anno, diciamo, come velocità porta contro i muri, ma per il resto il giudizio è quello che sappiamo, cioè questa è una legge di stabilità che è fatta per la quasi totalità a deficit. Io a questo punto debbo, Oscar, una risposta a tutte le persone che mi hanno scritto e che mi hanno chiesto così di precisare meglio la mia posizione personale, nel senso, mi è stato detto: ma come, tu che hai passato gli anni più duri della crisi a dire che serviva più deficit e non austerità, e adesso che arriva più deficit ti metti di traverso, cioè sei per caso un bastian contrario contrattuale? No, il problema non è questo. Il problema è che quando c'è una ripresa economica si cerca di agire sulla spesa e di razionalizzarla, non si va ad aggiungere deficit, perché altrimenti si fa quella che è una manovra cosiddetta prociclica. Ora, io capisco che le manovre procicliche siano la natura umana e la natura della politica, che è la cosa più umana che c'è sulla terra, però questo non vuol dire fare un buon servizio ai cittadini e ai contribuenti di un paese. Perché questa legge di stabilità e questo aggiornamento del DEF chiedono esplicitamente un aumento del deficit strutturale, cioè corretto per il ciclo economico. Questa è una manovra prociclica. Per quanto riguarda invece l'aspetto l'aspetto nazionalistico, tra virgolette, di Renzi, del tipo: se cercano di correggercela, gliela mandiamo indietro e siamo uno pari perché diamo 20 miliardi alla UE e riceviamo 11, benissimo, questi sono gli aspetti da nazionalismo in scarpe di cartone che piacciono tanto a molti italiani. A me personalmente questi non piacciono. È vero che noi resteremo ampiamente sotto il 3% di deficit PIL come valore assoluto, ma non dimentichiamo che questa resta una manovra prociclica, aumenta il deficit strutturale e soprattutto è basata su una previsione di inflazione all'1% per il prossimo anno, che oggi come oggi appare una pura chimera. Per cui diciamo questo: l'Unione Europea, visto che noi abbiamo firmato dei trattati che rappresentano la base legale dei nostri impegni, la base legale dei nostri impegni non ci viene fatta ricordare da burocrati di terza fila, ma ci viene fatta ricordare dai paesi e dalle autorità massime dei paesi con cui noi abbiamo condiviso dei trattati. Per cui Renzi dice una cosa che è molto pop e che piacerà molto al nazionalismo straccione di casa nostra, ma Renzi dovrebbe ricordare, anziché concentrarsi esclusivamente su Maastricht, che è stato nel frattempo affiancato da molte altre cose, che l'Unione Europea ci può uccellare, arpionare, oltre che il buon senso, su un piccolo parametro che è il rapporto debito-PIL. Se il rapporto debito-PIL non scenderà in maniera convincente il prossimo anno, e io ho seri dubbi che scenda, l'Unione Europea può tranquillamente aprire una procedura per squilibrio macroeconomico eccessivo. E questo bisognerebbe ricordarlo a Renzi, il quale continua a dire che non lo facciamo per l'Europa, ma lo facciamo per i nostri figli e i nostri nipoti. Ma è esattamente questo il problema. Ma Renzi lo sa perfettamente, lo chiederemo anche a te. Il problema è che un Presidente del Consiglio che fa questa scelta, quella che hai ricordato tu, cioè quella di fare tutto in deficit, quella di non tagliare nulla, perché ricordo ai nostri ascoltatori che anche i famosi 5,8 miliardi che voi leggete nelle anticipazioni della legge di stabilità non sono un taglio. Cosa voglio dire? Voglio dire che quei 5,8 miliardi sono fatti per 2 miliardi dal Fondo Sanitario Nazionale, poi il resto è fatto a metà da minor spese di acquisto e minor spese ministeriali. Però per entrambi queste per tutte e tre queste poste, i conti del governo, quelli pluriennali, prevedevano aumenti superiori a questi presunti tagli nel 2016, per il 2016. E come sapete, il Fondo della Sanità, più o meno l'hanno capito tutti, doveva aumentare di 3 miliardi e quindi anche se gli levi 2 miliardi di spesa tendenziale, continuerà a crescere rispetto al 2015 di 1 miliardo. La stessa cosa con patate riguarda sia gli acquisti che le spese ministeriali, quindi non si incide minimamente sulla spesa storica 2015, ma la spesa di tutti e tre questi capitoli, sia pure a un ritmo molto meno veloce dei tempi precedenti, continuerà a salire, quindi non sono tagli, non c'è nessun taglio in questa legge di stabilità sulla spesa storica e la scelta è esattamente questa. E Renzi lo sa benissimo, quando usa quel tono, secondo me può voler dire una sola cosa, Mario, non so se sei d'accordo. Poi ci occuperemo dell'analisi tecnica. L'analisi tecnica al fondo di questa scelta c'è, secondo me. Ce ne occupiamo quando c'è Taddei, però l'analisi tecnica è quella di dire proprio perché c'è la frenata mondiale, noi dobbiamo concentrare il tutto sulle misure che rafforzano fiducia e consumi e non su quelle che alzano il PIL potenziale. Per questo leviamo i mutasi, che non ha effetto sul PIL come leverebbe a battere l'IRAP. Per questo diamo mega incentivi all'ordo e non al netto, sia all'occupazione che agli investimenti, che ovviamente piacciono tanto a Confindustria e alle imprese. Ma io faccio notare a tutti che se li concentrassimo su gli occupati netti aggiuntivi e sugli investimenti netti aggiuntivi avremmo un mucchio di altre risorse per cancellare l'IRAP, e quello potremmo farlo, ma non lo si fa perché il governo è convinto che così rafforziamo la fiducia, cioè ci mettiamo uno scudo rispetto alla deflazione e alla frenata che stiamo importando come inevitabile dal mondo, e quello è il presupposto tecnico. Ma invece la cosa che dici tu, Mario, giustamente, il tono del Presidente del Consiglio, vi rimando indietro la legge di stabilità tale e quale, quello a me dice una sola cosa, che lui è pronto a fare il voto, che questa è una legge di stabilità concepita con questi criteri come l'ultima legge di stabilità dopo la quale magari a metà dell'anno dopo si va a votare, e magari si va a votare anche con un tono polemico contro l'Europa per rubare un po' di voti a Salvini, si va a votare con misure che piacciono per certi versi alla destra, i mutasi, alzare la soglia del contante, sulla quale io sono favorevole, altre no, oppure altre che piacciono con concepiti per dispiacere meno alla sinistra, che è molto corrucciata. Oggi da Torre dice, io questa, da Torre Bersaniano, dice al Corriere, non la voto, esco dal PD, cioè ci sarà un grande scontro sulla scelta di questa legge di stabilità. Le misure che piacciono più, che possono, diciamo, dispiacere meno alla sinistra rispetto a quelle che ho citate, sono ovviamente invece il canone RAI messo in bolletta, il potenziamento del fondo per la povertà. Però secondo me è una finanziaria elettorale questa, tu che dici? Sì, sembra una finanziaria elettorale. Io non so se Renzi fa queste considerazioni a tavolino, nel senso che poi va a votare, si libera di tutte le opposizioni interne e esterne e vissero tutti felici e contenti. Questo sinceramente non lo so, però per ricollegarmi a quello che tu hai appena detto, cioè come si fa a fare una finanziaria espansiva quando le previsioni di crescita di questo paese sono positive l'anno prossimo? Se noi avessimo fatto una finanziaria neutrale come posizione fiscale e poi si fosse verificato il rallentamento congiunturale globale per l'operare degli stabilizzatori automatici, noi avremmo aumentato il deficit. Ripeto, questa è una manovra espansiva ed è una manovra prociclica. Poi, perdona, ma voglio dire, se effettivamente la recessione dei paesi emergenti dovesse trasmettersi, e anche la crisi perdurante cinese dovesse trasmettersi sia agli Stati Uniti che all'Unione Europea, cioè noi pensiamo realmente che le parole di Renzi e quant'altro isolerebbero questo paese felice dal contesto internazionale, cioè io non vorrei, forse noi stiamo sopravvalutando l'aspetto strategico ma anche quello tattico del Presidente del Consiglio, il quale è bravissimo nel fare giravolte e nel cambiare idea. Ricordiamo che questo è il governo che quando si è insediato non faceva altro che parlare di una spending review profonda, radicale, rivoluzionaria, epocale. Abbiamo avuto esattamente il nulla. Quindi riflettiamo su questo aspetto. Riflettiamoci davvero. Se questo è un approccio alla Laffer, no? Del tipo taglio le tasse in deficit, poi tutti sono felici e contenti, c'è un boom di sentiment, un boom di consumi, investimenti e gettito fiscale, io temo che il risveglio sarà piuttosto duro. Ma parliamoci chiaro, ma avesse mai provato, che qua di tagli fiscali ce ne sono tanti, incentivi fiscali, non si toccano le detrazioni alle categorie, mio amico Roberto Perotti ha lavorato invano su questo perché sennò aumentava la pressione fiscale, ma pensateci un secondo voi che siete a casa in ascolto, l'avesse proposta una finanziaria con l'aumento strutturale del deficit e la mancanza di copertura anche rispetto al testo che hanno annunciato, perché ripeto mancano ancora 3 miliardi, fatto per tagliare i mutasi prima casa eccetera eccetera, l'avesse fatto la destra in deficit, ma voi immaginate cosa sarebbero i giornali italiani? Perché adesso Mario, quando ha detto, ha usato la curva di Laffer, questa è una versione di Laffer de Noantri, per così dire, l'avesse fatto la destra, che giornali trovereste? Che commenti trovereste? Che sdegni, che indignazioni, che dimostrazioni teoriche e pratiche, molte delle quali fondate, che naturalmente questa scelta è un rischio e ci porta a sbattere perché levano le clausole di salvaguardia solo per il 2016, quelle per il 2017 e il 2018 restano. Se questo azzardo viene contrastato da un andamento importato dal mondo di crescita e deflazione negativo e andiamo a sbattere, come si fa poi? Bisogna tagliare tutto? Allora, questi rischi ci sono e sono rischi molto forti, non dimentichiamoceli, questa legge di stabilità che però vede le grandi imprese molto contente e quindi questo abbassa il livello di critica sui giornali, lo dico io per prima, questa è una radio Confindustria, però è così, e vedrà molto protesta sociale per la parte del pensioni, perché il governo aveva fatto capire che in realtà strezzava l'occhio ai prepensionamenti, che qua non ci sono ancora, per quello che era stato promesso ai pensionati poveri, che non c'è, per quello che riguarda naturalmente i dipendenti pubblici. Vediamo come la pensate voi, ci sentiamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, strigiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati qui in diretta a 10.35 primi 55 secondi dagli studi della 24 di Milano, la compagnia dei conti della Belva oggi in edizione ristretta perché oltre a me c'è Mario che resta collegato con noi, ci sei Mario? Assolutamente sì. Ma tu sei d'accordo su quello che dicevamo prima in chiusura, se l'avesse fatta la destra questa scelta ci sarebbe stata una reazione un po' diversa o no? Sì, ma assolutamente, cioè ci sarebbero stati un po' di girotondi, avrebbero partecipato tutto il PD, tutti assieme appassionatamente, la sinistra del PD, la minoranza, la maggioranza, il centro, tutti quanti, diciamo, per cui credo che Berlusconi, politicamente, parlandone politicamente da vivo, possa riposare tranquillo, perché una buona parte della sua eredità, diciamo, sta venendo raccolta e realizzata. Addirittura. Con maggiore zelo, direi. Devo dire anche con maggiore competenza, se la mettiamo da questo punto di vista, rispetto a quello che la destra diceva e non faceva. Con minore opposizione, Oscar, più che con maggiore competenza. Minore opposizione. Allora, intanto ci ha raggiunto, e quindi apposta ho ripreso da queste nostre ultime considerazioni, ci hanno raggiunto Filippo Taddei, che è responsabile nazionale economia del PD. Buongiorno e grazie Filippo di essere con noi. Buongiorno Oscar e ai radioascoltatori. E Guglielmo Loi, segretario confederale del UIL. Grazie Guglielmo di essere con noi. Buongiorno. Allora Filippo, noi abbiamo tentato di sintetizzare quel po' che abbiamo capito fino a questo momento. È tanto, ovviamente, ma ci mancano i numeri e le tabelle. Io da ieri, come molti colleghi, ho una versione che però il MEF mi ha naturalmente smentito, come tutti i colleghi, però noi stiamo attingendo di là per scrivere sui giornali tutte le cose possibili e immaginabili, oltre una settantina di articoli, 104 paginette. Però, Filippo, a noi... A te volevamo chiedere le cose di fondo di questa scelta dell'impianto della legge di stabilità, cioè praticamente la morte dell'idea di tagli di spesa, perché abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori che i tre interventi dei 5,8 miliardi incidono sul tendenziale di capitoli di spesa che comunque continueranno a crescere, sia pur di pochissimo, l'anno prossimo, quindi sono un contenimento effettivamente del deficit, ma l'idea è che non si incide sul perimetro della spesa pubblica, ed è un'idea pensata ovviamente, cioè dire in questo momento non ce lo possiamo permettere di nessun tipo, fosse anche sulle partecipate, poi uno legge le migliaia di pagine di dossier ATAC di oggi sui giornali e si interroga, però questa è la scelta fatta ed è una scelta, diceva Mario prima, perché è una manovra prociclica domestica per tentativo di evitare che la frenata del mondo, la deflazione del mondo si riverberi sull'Italia, e quindi bisogna sostenere fiducia ai consumi. Questo spiega anche il più delle misure fiscali, il core, cioè i mutasi, che serve per la fiducia, non tanto per gli effetti sul PIL, fiducia ai consumi più che sugli effetti sul PIL, se no era meglio fare l'IRAP. Spiega la batteria di incentivi fiscali all'ordo invece che al netto, sia sugli occupati che per gli investimenti. Non è un azzardo, Filippo, e oltretutto un azzardo che se l'avesse fatto la destra anni prima avrebbe avuto da parte vostra i cannoni schierati a zero? Ma guarda, sull'ultima domanda, un signore con una barba ancora più lunga della tua diceva che la storia non si fa con i secoli, ma quindi quello come avrebbe reagito il paese di fronte a scelte simili fatte da un altro governo, sinceramente è una domanda che a cui non so rispondere, in tutta onestà, e se anche sapessi rispondere la troverai una risposta irrilevante. Quello che mi importa dire è che in che senso io sono in dissenso su quello che sulla tua introduzione, in che senso invece sono d'accordo. Sono in dissenso quando tu dici che si è abbandonata l'idea della revisione della spesa. Io, come voi sapete, sono non esattamente uno dei più morbidi sul tema, e quindi ognuno di noi poi può pensare che si potesse fare di più o di meno rispetto a quello che si è fatto. Eppure la revisione della spesa esiste, ed è una revisione della spesa che continua ad avere una sua componente ordinaria. Cioè noi abbiamo superato quello che culturalmente secondo me era molto importante, il concetto che si fa una grande revisione della spesa, un taglio draconiano in un anno di 20 miliardi, 30 miliardi, quello che volete, e poi il paese è tranquillo, e poi tutto è risolto. E a quella visione ne abbiamo posta un'altra, che già si sostanziava nella scorsa legge di stabilità e che continua in questa, che si fa fondamentalmente una revisione della spesa, sì certo sul dato di crescita, ma sul livello di spesa che tu avresti altrimenti in assenza dell'intervento ottenuto, si procede tagliando sui 6-7 miliardi, che coincide all'incirca con un 1% scarso della spesa primaria, e lo fai ogni anno, continuariamente, ordinariamente. Ora, aspetta Filippo, per far spiegare meglio, ovviamente bisogna capire che poi i nostri ascoltatori non è che si orizzontino per definizione, no? Su cos'è il tendenziale rispetto al programmatico, eccetera. Però con questo metodo... Posso fare un esempio? Sì, spesa sanitaria, così sì. Per dare un'idea che è la cosa più semplice che c'è, no? La spesa sanitaria ha una sua progressione, no? Tutti sappiamo, il nostro reddito cresce nel tempo e così crescono le tasse che paghiamo, un effetto nominale, non un effetto reale, e così crescono le spese. Noi interveniamo dicendo bene, anziché far aumentare la spesa sanitaria a 113, la facciamo aumentare a 113 miliardi, esatto. Fondo sanitario, la facciamo aumentare a 111 miliardi. Perfetto. Questo vuol dire che è un po' come se una famiglia che decidesse bene, l'anno prossimo, anziché avere il nostro reddito di 100 euro, avremo un reddito di 102 euro, e visto che le nostre spese l'anno scorso erano di 100 euro, decidiamo di farli 102 euro. Bene, noi abbiamo detto una cosa molto semplice. Anziché aumentare le spese di 102 euro, pur con l'aumento del reddito a 102 euro, le spese aumenteranno solamente da 100 a 101. Questo è una riduzione del valore, del peso relativo della spesa in rapporto al reddito. Ora, qual è la sfida per me come Partito Democratico? Questa è una sfida che riguarda me e coinvolge il Paese nella mia funzione, diciamo, di governo. Sono in grado di fare questa riduzione del peso relativo della spesa peso relativo all'aumento del reddito, il prodotto interno lordo, sono in grado di fare questa riduzione mantenendo il livello dei servizi, oppure magari migliorandoli, oppure se faccio questi tagli io comprometto il livello dei servizi. Siccome io penso che gli italiani, quando si muovono nel, hanno questa vasta, ampia percezione che la pubblica amministrazione italiana sia, con tutte le eccezioni, ma in media, piuttosto inefficiente, piuttosto produttiva di sprechi. Bene, io voglio semplicemente, nella mia attività di governo, rendere onore a quella impostazione e dire, bene, voi percepite gli sprechi, sprechi per me vuol dire che noi possiamo fare le stesse cose di adesso, magari anche un po' meglio, spendendo di meno. Se no io devo andare davanti agli italiani e dirgli, Filippo, guardate, vi sbagliate. Un numero. Vabbè. Se, voglio dire, 1,5/1,8 miliardi di contenimento dell'aumento tendenziale della spesa in quelli che si chiamano i consumi intermedi, cioè le forniture, e cioè su un totale di 132 miliardi, 1,5-1,8 su 132 non è una riallocazione, una manutenzione, voglio dire, ordinaria o straordinaria, è una modestissima percentuale di modestissimo efficientamento delle procedure di acquisto. Cioè, come sai meglio di me e mi insegni, Filippo, un paese che ha una spesa pubblica al 51% e che ha inefficienze come quelle che vediamo nelle partecipate locali, dovunque, nelle inchieste di Milano e di Roma, su 132 miliardi di acquisti, se guardiamoci nel panno degli occhi, come si fa a dire che davvero con 1,5-1,8 miliardi anno di efficientamento su 132 abbiamo imboccato una strada? È una strada lentissima, con un paese che ha il 51%, e lo sai meglio di me, di spesa pubblica e con i 48 rotti di entrate pubbliche. Quanti decenni ci mettiamo per arrivare al 44% di spesa del PIL, sul PIL della Germania, o al 43% tre rotte della Spagna, e cioè a poter strutturalmente avere una pressione fiscale più bassa? Perché in queste condizioni non ce la faccio, ci mettiamo, io sono morto prima di arrivare lì, o sbaglio? Ma secondo me la facciamo prima della tua morte, non perché ti auguro, non solo perché ti auguro una lunga vita, patriarca biblico, ecco. No, non ce la facciamo prima, fammi giusto mettere in fila un po' di numeri. Tu mi fai attenzione a confrontare i livelli di spesa totale con il paese, tra paesi che hanno livelli di debito e quindi costo del debito molto diverso. Guardiamo alla spesa primaria, e se noi guardiamo ai livelli di spesa primaria, caro Oscar, noi giriamo a 2 punti di PIL scarsi in più rispetto alla Germania. Io voglio assorbire quello. 2 punti di PIL significano 30 miliardi per noi, non è che significano tanto. Poi tu mi puoi dire, guardate, c'è la spesa per gli interessi, il debito pubblico gigantesco, eccetera. Ma allora arriviamo anche a considerare questo. Prendiamo i casi di maggior successo di riduzione della spesa pubblica nel mondo. Prendiamo il Canada, ci ha messo 15 anni. Prendiamo i casi più vicino al nostro, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, che veniva citato adesso da colleghi economisti. Io vorrei veramente ricordarvi che il bilancio pubblico è fatto di due lati, le entrate e le uscite. E che le uscite, per il taglio della revisione della spesa, il taglio delle uscite, è un'operazione non solo complicata, ma è costosa politicamente. Siamo ancora in una democrazia, il costo politico non va mai ignorato, va implementato se vuoi fare il decisore pubblico. Bene, quei paesi, mentre facevano la grande revisione della loro spesa, che noi tutti plaudiamo, producevano un livello di deficit variabile tra il 4,5% e il 5,5%. Questo vale per la Spagna, vale per il Portogallo, vale per la Gran Bretagna, tutti i paesi che noi guardiamo come modello di riduzione. Allora io vi dico, vi faccio una semplice domanda, lo dico nell'interesse, penso, di delle persone che stanno intorno a questa trasmissione, che hanno a cuore l'efficientamento, sì, la riduzione, sì, della spesa pubblica. Sì. Io vi dico, cerchiamo di essere ragionevoli per quella che è la condizione italiana, non quella astratta di un altro paese. Un paese che ha il debito pubblico come il nostro, che quindi ha un'esigenza di spendere più a bocce ferme, all'inizio di tutto, di più di tutti gli altri, perché devono onorare il proprio costo del debito. In quel paese lì, la revisione della spesa ragionevole che puoi fare è diversa rispetto a quella che noi abbiamo fatto ogni anno su base annuale, che continuiamo a fare e che porterà alla correzione che ho identificato. Secondo me è difficile essere più ambiziosi di quanto siamo stati. Allora, sentiamo Mario, e come giustamente ha ricordato Mario Seminario prima, che ha letto i libri, anche che ha scritto, oltre che il blog, eccetera. Mario Seminario, lo ridico a chi non lo sapesse ancora, dei nostri ascoltatori, non è un sostenitore, tanto più in questi anni di crisi, dei tagli della spesa in termini pregiudiziali? Non lo è, Mario, perché ha sempre spiegato il perché. Mi interessa capire, Mario, rispetto alla domanda retorica che ci ha fatto Filippo Taddei, noi siamo già molto ambiziosi su questo, tu come la pensi? Ma io vorrei dire una cosa, capisco l'impianto teorico e retorico di quello che dice Taddei, diciamo, che saluto, ma a me continuano a non essere chiare alcune cose. Intanto il Fondo Sanitario Nazionale viene frenato nel suo aumento per 2 miliardi, è giusto dire frenato, non tagliato, perché molti tendono ad equivocare questo, però sì. Poiché c'era stato solo pochi mesi fa il cosiddetto patto per la salute, siglato solennemente tra Palazzo Chigi e i governatori, che prevedeva un aumento di 2 miliardi di quel fondo sul 2016, adesso il fondo aumenta solo di 1 miliardo, diciamo che c'è un problema di credibilità delle decisioni governative. La stessa credibilità che manca quando noi andiamo a leggerci le rassegne stampa di fino a pochi giorni fa, il responsabile governativo per la spending review, Yoram Gutgeld, fino alla metà di settembre parlava serenamente di 10 miliardi di revisione della spesa. Ora, adesso sono diventati 5, si può dire che l'obiettivo è di lunga lena, che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, non si può fare un taglio a doccia fredda, ma queste sono oggettivamente incoerenze della comunicazione governativa. Taddei non può negare questa evidenza. Mi pare anche a me, però puoi negarla, Filippo? No. Posso su questo? No, assolutamente, ma è come funziona il processo decisionale? No, il processo decisionale ci è chiaro, Renzi comanda su tutto. Mi pare molto chiaro agli italiani. Aspetta, ti ridò la parola, ma dobbiamo fare la sospensione solo per le informazioni stradali. Subito dopo torno, giuro, a darti la parola. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta, è con noi collegato Filippo Taddei, responsabile nazionale economia del PD, e Guglielmo Loi, a cui do subito la parola. Però Filippo voleva fare ancora una precisazione sul meccanismo della comunicazione. No, ma più che della comunicazione è esattamente, se posso una battuta, è esattamente l'opposto di quello che tu dicevi, Oscar. Non è Renzi che comanda. No, certamente il Presidente del Consiglio si assume la responsabilità ultima, ma c'è un processo, diciamo, dialettico piuttosto intenso che porta ad avere anche punti di vista diversi, che poi trovano la sintesi nella legge di stabilità. Voi sentite opinioni diverse, mi permette di dire, entro un ambito estremamente accettabile di dibattito e confronto, perché deriva dal fatto che alcuni di noi sono, come posso dire, magari un po' più fiduciosi sul taglio alla spesa. Posso, per fare un po' di nomi, sicuramente le sensibilità tue, di Nannicini, di Gutgeld, di Padoan, della squadra del MEF, eccetera, è vero che tutti poi concorrono. Io sono dell'idea che la scelta è dire i tagli di spesa sono finiti sia di Renzi. Noi abbiamo dato la nostra interpretazione del perché la crescita del tendenziale, quindi l'abbiamo tentato anche di spiegarlo a chi a casa. Io sono testimone del fatto che quando Renzi a Milano annunciò, eravamo in diretta in una puntata del Conte da Berlo, l'operazione I Mutasi, un mio collega con cui ci scambiamo da anni le cose, facendo questo mestiere, le carte e così via, stava intervistando il ministro dell'economia che era fuori Italia, e il ministro dell'economia di quell'annuncio non ne sapeva nulla. Cioè, questo io lo dico da giornalista, ma non si può dire una cosa, ma io nel mio mestiere devo fare quello io ti sto dicendo nella tempistica di quell'annuncio, non ti sto dicendo che ovviamente io ignorava il tema, abbiamo più volte avuto prove che il Presidente del Consiglio, diciamo, piede sull'acceleratore sulle cose di cui è più convinto, ma questo è il suo mestiere, è questo questo sto dicendo, è ovvio. Figuriamoci. Magari il ministro se lo aspettava il pomeriggio, invece è venuto la mattina. No, secondo me il ministro se lo aspettava un po' più avanti, per così dire. C'erano ancora alcuni parecchi dettagli. Perdonami, ancora oggi noi abbiamo sentito qui, abbiamo dato il microfono a quelli dell'ANCI, ho detto, ma voi l'avete vista la norma che vi dà la piena copertura e garanzia sui mancati introiti, i mutasi prima casa, i mogricoli imbullonati, eccetera, eccetera, e l'avete la norma che vi dà piena garanzia dell'ammontare dello sblocco sul patto di stabilità per gli investimenti su chi ha cassa e liquidi attivi? E la risposta dell'ANCI, erano del PD, quelli al microfono, certo. Siamo andati al MEF, a Palazzo Chigi, no, non ce l'abbiamo noi la norma, quindi vedere per credere, ecco, cioè è vero che loro non l'hanno vista, però diciamo, mettiamola così, altri l'hanno vista. Voglio sperare che ci sia, anche perché quelli che l'hanno vista possono comprare. Allora, sentiamo Guglielmo Loi come la pensa di tutto questo, sull'impianto stiamo parlando, è un impianto azzardoso quello del governo, Guglielmo, se l'avesse fatto la destra ci sarebbero i girotondi oppure no? Risposta secca, forse qualcosa più dei girotondi, ma questo sono d'accordo con Taddei, ma ex tantibus rebus, le condizioni del paese sono queste, quindi vediamo le reazioni, però nel merito è proprio così, è una manovra molto simile, anche se non in termini quantitativi, a quelle fatte, che provo a sintetizzare in questo modo, cioè nessuna selettività, sia nella parte, diciamo, tagli, sia come dire, nelle modalità con cui si recuperano peraltro solo parzialmente le risorse. Invece molto selettiva nelle uscite. Questo che cosa indica? La semplificazione che a noi non piace e non credo che sia corretta, i famosi tagli lineari, ma poi c'è il problema della sanità, perché è vero che potrebbe anche essere sostenibile, ma se non si dà un'indicazione chiara sulle modalità di riduzione della spesa sanitaria, come dire, è facilmente prevedibile che avverrà quello che sta già avvenendo in questi mesi, in questi anni, e che ha portato tra l'altro milioni di italiani a farsi la polizza integrativa, sia dal punto di vista individuale e collettiva, cioè ritardi nelle prestazioni e tutto quello che sappiamo. E non è selettiva anche, come sappiamo, sulla questione della decontribuzione, con il risultato che vedremo dal punto di vista dell'efficacia delle contribuzioni, cioè lo sgravio previdenziale per le nuove assunzioni. Io sono molto grato che tu sei sindacalista, però stai dicendo una cosa che non è scontato che dica il sindacato. Il sindacato dovrebbe dire viva la massima decontribuzione lorda, non netta aggiuntiva. È un atto di responsabilità che Guglielmo Loi vi abbia fatto anche questo esempio. Va bene, noi adesso torniamo dopo la sospensione del giornale radio. Intanto io ringrazio Filippo Taddei e Guglielmo Loi. Il segnale orario vi è offerto da logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Della Belva. Ed eccoci in questa seconda parte dei Conti della Belva, Oscar Giannino qui che conduce dagli studi di Milano e Mario che resta con noi collegato, Mario Seminerio, vero? Eccoci qui. Allora, un po' di risposte agli ascoltatori su SMS e poi andiamo con qualche telefonata. Opinioni diverse negli SMS, c'è chi dice, come per esempio Ivano, ma come per la prima volta qualcuno tenta di mettere insieme un mix inedito, diverso, come dicevo, e per certi versi criticabile, però come sempre Renzi va avanti e fa. E non si può solo criticare. Capisco, prendo atto, e purtuttavia noi tentiamo di ragionare. Ripeto, una volta che si fa tanto deficit, a me sono concesso che sia giusto e che non sia un enorme azzardo, visto che le clausole di salvaguardia ce le ritroviamo poi per decine di miliardi nei due anni successivi, è lecito porsi il problema di perché concentrarli su alcune cose invece che su altre? Perché, ecco, questo è il nostro punto di fondo, oltre, nel mio caso, a essere molto perplesso nel continuare a non incidere strutturalmente, ecco, sullo Stato. Se non lo facciamo neanche quando riparte l'economia, quando lo facciamo? Quando poi rifrena? Ecco. Oscar, posso dire una cosa? Certo, devi. Allora, a parte tutto quello che si è detto, però, che cosa mi significa dire la estensione della no tax area per i pensionati e il taglio dell'IRES sulle imprese avverrà nel 2017 oppure nel 2016 se l'Unione Europea dovesse accettare la flessibilità aggiuntiva della cosiddetta clausola immigrati. Esatto. Stiamo scherzando. No, ma soprattutto... praticamente avremmo tagli permanenti d'imposta che vengono coperti con un maggior deficit temporaneo per cause eccezionali. Stiamo scherzando? Mettiamoci nei panni della commissione a cui facciamo queste richieste così argomentate, perché è ovvio che la commissione dicono: scusate, voi ci chiedete uno 0,2 in più, dite che per i profughi, contemporaneamente state dicendo che invece per un taglio strutturale permanente che serve ad alzare la no tax area per i pensionati, poverini, e serve per anticipare di un anno i tagli dell'IRES, anche quello permanente. Cioè, come minimo la commissione dice: ma siete scemi? Nel frattempo però si dice che se la commissione obietta noi gliela restituiamo uguale. Poi un blocco di altri ascoltatori che interviene giustamente sulla questione degli autonomi. Devo dirvi la verità, per come l'ho capita io, oltre alla correzione, e questo è abbastanza chiaro come sarà, la correzione del casino fatto l'anno scorso sul regime dei minimi IVA, che è una correzione sacrosanta e dovrebbe funzionare così, cioè per una nuova apertura di partita IVA, su questo Mario potrebbe tenerci lezioni su questo, come questo argomento è tornato nella comunicazione pubblica in maniera sbagliata al Ministero del Lavoro in questo 2015, ma comunque sull'apertura di partita IVA ai minimi si resta, torna a restare per 5 anni con la tassazione agevolata al 5%. Sotto i 30.000 euro di fatturati si resta con l'aliquota che a quel punto diventa permanente del 15%, e quindi questo rimedia al pasticcio dei minimi IVA. Seconda cosa importante, e questo c'è anche già nella bozza che ho io di legge di stabilità, si conferma lo stop alla progressione dell'aliquota per gli autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS, quindi resta ferma al 27,72, si blocca anche quest'anno la progressione verso il 33,7, ma la cosa importante sono alcuni diritti previsti dal cosiddetto Jobs Act per gli autonomi, questo che si deve al professor Nannicini, è lui che ci ha lavorato personalmente, da quello che so. Alcuni di questi diritti nuovi per gli autonomi, quali possono essere? Innanzitutto c'è una deduzione di imponibile fino al 100% delle spese di formazione annuale fino a 10.000 euro. Poi ci dovrebbe essere, in caso di impossibilità di lavoro per l'autonomo, credo che sia solo dopo due mesi, quindi dopo 60 giorni, si può sospendere il pagamento dei contributi. 60 giorni sono tantissimi, però iniziamo a far entrare nell'ordinamento un principio per il quale se l'autonomo è malato e non produce reddito, qualche cosa bisogna sgravarlo fiscalmente, quindi si inizia i contributi. Due mesi sono tanti, ma l'importanza è il principio, e ci dovrebbe essere questa norma. Poi ci dovrebbe essere la questione della maternità per le lavoratrici autonome, perché oggi chi è iscritta alla gestione separata dell'INPS ha 5 mesi di indennità alla nascita del bambino, però questo naturalmente per l'autonomo significa smettere, e quando sei autonomo poi non trovi le cose come prima, e di conseguenza verrebbe meno il divieto di fatturare, perché prima il diritto c'era, dice: ma tu non devi fare niente, che capite che un autonomo significa devi morire, per così dire, e quindi in questo caso viene meno il divieto di lavorare e fatturare, e si consente di continuare a lavorare sia pure in presenza dei 5 mesi di indennità per l'INPS. Ecco, queste sono alcune delle cose che sono un passo avanti, secondo me importante, per i diritti dei lavoratori autonomi. Allora, telefonate, vediamo chi ci abbiamo Claudio da Brescia. Claudio. Sì, buongiorno, il mio intervento sarà l'ennesimo forse sull'IMU e TASI, però non è un discorso politico, lì non ci vuole molto capire che è una misura iniqua, perché io che ho una piccola casa non è lo stesso con chi ha una villa con piscina, cioè al di là della politica è una cosa di razionalità, cioè non esiste. Io avevo in mente anche di prendere con i risparmi accumulati da una vita di lavoro, 30 anni di lavoro, magari una seconda casa. ma adesso non lo farò più perché senza altro sposteranno la tassazione sulla seconda casa in modo assolutamente... E poi le risorse per... Vediamo Claudio, il governo e anche ieri mattina Renzi a questo ha detto no, io posso assolutamente giurare che non ci sarà nessuno. Sì, non ci credo più, io sono anche iscritto al PD, ma questa qua è discriminante che mi fa, questo qua non è più il PD, è una manovra di destra che prenderà voti mercenari e che poi torneranno alla destra. È un giudizio politico anche, per un iscritto al PD, vedremo quanti saranno. Oggi l'intervista è da Torre al Corriere, è come se fosse una specie di suonare le trombe contro Renzi e col governo, lui dice esco dal PD. Poi ecco, io mi consento, lavoro in banca, so come giri il contante, anche le misure dei 3.000 euro, non è la più grave, però... C'è gente che ha soldi in cassetti di sicurezza, sta sempre scoperta, sempre coperta, in nero, va via. Siamo una repubblica fondata sul lavoro, nero. Ah, sentiamo Ezio da Milano. Ezio, grazie. Prego, grazie. Buongiorno, Gianni. Buongiorno, Ezio. Senta, una cosa che non ho mai sentito è le categorie protette. Dove sono finite tutte le famose agevolazioni delle assunzioni, degli sgravi che ai tempi ne avevano parlato ancora prima di Monti? Non se ne è più parlato. E dal punto di vista degli interventi annunciati in legge di stabilità per lei parla per categorie protette, quale intende? Le categorie che sono disagiate, che hanno un deficit, tipo mia moglie che, come si chiama, soffre di bipolare, però è un'ottima allenatrice. Quello che abbiamo capito fino a questo momento, che c'è un potenziamento rispetto alla mole delle risorse allocate sulle poste, diciamo, di seconda importanza rispetto ai mutasi e così via, c'è un potenziamento molto forte del fondo povertà che dovrebbe concentrarsi su sostegno a minori, figli minori di famiglie incapienti e che naturalmente non hanno percepito gli 80 euro. Poi è annunciato un fondo per disabili senza sostegno familiare che ricade nell'articolo, io ce l'ho in bozza, l'articolo 53-54, annunciato come provvedimento, tra virgolette, dopo di noi. Ecco, ci sono alcune cose di questo genere. Naturalmente lei ha ragione, mi devo scusare con tutti, ma noi il dettaglio non ce l'abbiamo, quindi noi andiamo sui tweet. In realtà Renzi ci tiene a dire che queste parti nella legge di stabilità quest'anno sono più rilevanti di quanto non fossero nelle leggi di stabilità precedenti. Il mio consiglio, oltre a raccogliere il suo invito a parlare di più dei deboli, disagiati della società, è che però queste sono materie così delicate che veramente si può giudicare la congruità e l'efficacia dell'intervento solo una volta che uno c'ha il testo in mano, capisce le risorse, non solo quante sono, ma poi come vengono allocate davvero e utilizzate, perché io su questi temi diffido un po' poi di andarci alla leggera e chiedere consenso anche a chi è purtroppo in grave difficoltà nella vita, mi sembra veramente l'ultima cosa da fare. Quindi io mi scuso, mi limito a dire quello che ho capito fino a questo momento e non è però una risposta precisa, come giustamente Ezio e i tanti a nome dei quali Ezio ci sta telefonando hanno pienamente diritto, perché ce ne dimentichiamo troppo spesso. Torniamo tra un minuto e a quel punto la vediamo dal punto di vista dei consumi e dei commercianti, perché sarà con noi Mariano Bella, del capo dell'ufficio studi di Confcommercio. Tra un minuto. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City. Smau.it vi presenta della belva. Eccoci qua, tornati in diretta con Oscar Giannino e Conti la Belva e Mario Seminiero, che resta collegato con noi, vero Mario? Eccoci. Allora, alle domande tecniche relative al regime di compatibilità per i minimi 30.000 euro, aliquota 15%, compatibilità con studi di settore, dipende dalle vostre figure professionali, quindi per questo abbiamo bisogno veramente del testo, non solo quello che verrà presentato, ma del testo che verrà approvato. Quindi è una risposta ad alcuni sms che sono arrivati. Allora, Oscar, posso dire una cosa? Certo. Sul sito Gli Stati generali, oggi c'è un commento dell'avvocato Giorgio Infranca per quanto riguarda l'ipotesi del nuovo regime dei minimi, dove ci sono luci ed ombre. Io ho fatto un retweet e anche dai conti della Belva, per cui se andate sugli stati generali, perfetto. E poi magari potremo avere Giorgio in trasmissione le prossime settimane per approfondire più analitico. Ottimo, perché Giorgio Infranca è una persona di straordinario valore e acume tecnico. Allora, abbiamo con noi Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Buon sabato e grazie di essere con noi, Mariano. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, noi ci stiamo interrogando già da un'ora e mezza, abbiamo avuto Filippo Taddei che ci ha spiegato questo impianto. Questa scelta di fondo, no, tagli di spesa, anche se lui ovviamente dice no, le graduali, ma di lungo periodo, però sostegno, fiducia e consumi. E questo spiega perché si fanno mega incentivi fiscali al lordo invece che al netto degli effetti. Io e Mario siamo un po' critici del fatto che paghiamo un po' troppo gli occupati aggiuntivi, netti aggiuntivi che stiamo determinando. Credo che anche sugli investimenti lordi sarà così, perché cosa diversa è incentivare al 140% gli investimenti netti aggiuntivi. Però capisco che il governo ragiona, dice facciamo deficit, pigliamo l'azzardo, però lo facciamo per fiducia ai consumi. Voi che siete, diciamo, i sorveglianti reali di fiducia ai consumi, che pensate e che dite? Dunque, io devo dire che non amo molto l'approccio a queste leggi omnibus in cui il governo dice a te do questo, a te do questo, a te do questo, ho soddisfatto tutti un pochino e quindi non dovete lamentarvi, la legge di stabilità va guardata nel complesso. Comunque, per quanto ci riguarda, due battute le posso dire, siamo abbastanza soddisfatti della sistemazione di questo regime forfettario dei contribuenti minimi. La soglia di eleggibilità viene alzata e quindi questo permette l'accesso a una tassazione perlomeno più semplice, anche se poi c'è un problema di settore, e quindi questa è una cosa positiva. L'aumento della franchigia IRAP è una piccola cosa ma abbastanza gradita. E anche gli altri tagli di tasse ci vedono ovviamente favorevoli. Però se andiamo a sintetizzare poi tutta questa ampia platea di interventi, io capisco che il governo abbia puntato tutte le cartucce sullo sfruttamento di ogni e qualsiasi spazio di flessibilità, portando appunto il deficit programmatico dall'1,4 al 2,2. Tuttavia devo ricordare che l'espansività, cioè la capacità di generare il reddito della manovra, non è proprio la differenza tra le maggiori risorse messe nell'economia e i tagli di spesa, in quanto, come dire, non dobbiamo cadere nel tranello di fare il confronto carta contro carta. 16,8 miliardi di clausole di salvaguardia, che fortunatamente sono state neutralizzate, non sono maggiori risorse all'economia, ma sono, diciamo, il tentativo di evitare di togliere queste risorse. Come dire, non è che se uno non mi dà uno schiaffo mi ha dato una carezza, esatto. Mi ha dato uno schiaffo. Quindi diciamo che l'effetto espansivo di questa manovra è un piuttosto più ridotto di quello che viene millantato. Direi, io non voglio dire millantato, però insomma, sai, io qui c'ho davanti una tabella sulla quale stiamo lavorando da 10 giorni, no? Poi i numeri sono un po' sbagliati perché ancora i numeri precisi non ci sono, però se io, diciamo, guardo all'effetto puramente espansivo, non carta su carta, ma realtà prospettica contro 2015, cioè realtà effettiva, il livello espansivo è piccolo. Noi l'abbiamo calcolato perché, guardando un po' veramente a quelle che sono minori spese e maggiori entrate, queste le togliamo, diciamo che queste avrebbero l'effetto tra virgolette depressivo, ma se i tagli sono fatti bene espansivo, ma diciamo nel breve periodo questi li togliamo e guardiamo le minori entrate, cioè le maggiori risorse date all'economia che riguardano i crediti disponibili e quindi i consumi di cui parlavate prima. Beh, qui il netto vero è 4,75 miliardi, che comunque potrebbe generare una crescita aggiuntiva, secondo noi, rispetto alle stime di 1,4 che facevamo per il 2016, di 0,3 punti. Questo è il cuore, a mio avviso, del problema di come si analizza questa, questa legge finanziaria. Dopodiché c'è il punto interrogativo appunto sugli investimenti, ma questi investimenti non so dove verranno fatti, che è quello che riguarda quei 0,3 di punto, no, di flessibilità. Non ho capito bene dove verranno fatti, da chi verranno fatti e quando verranno fatti, per cui in questo momento... Beh, insomma, dalle norme che abbiamo in bozza, quella, diciamo, sono abbastanza precise, cioè questi, si tratta l'incentivo agli investimenti, tranne che in immobili, di beni strumentali delle imprese, compreso l'ultimo trimestre 2015, insomma, è parecchio forte. Stai dicendo l'ammortamento? Sì. No, ma quello è un pezzo della vicenda che vale qualche centinaio di milioni. Qui io sto parlando di quei 0,3 di deficit aggiuntivo per gli investimenti pubblici, d'accordo? Di cui forse non si è abbastanza parlato, ma queste sono comunque maggiori spese, d'accordo? Quindi per valutare gli effetti, oltre quei 0,3 potenziali, diciamo, di reddito disponibile, di soldi dati alle famiglie, per le famiglie povere, sono tutte cose giuste, bisogna valutare anche questi 5 miliardi che sono un pezzo non semplice della manovra. E allora diciamo, la manovra è molto complicata, c'è tanta roba e c'è stata anche attenzione alle piccole imprese, però insomma, va ancora valutata. Devo lamentarmi di un fatto, noi ci aspettavamo sinceramente la totale deducibilità dell'IMU dagli immobili strumentali. Io non ci ho mai creduto invece che ce la dessero, però... Però dobbiamo anche riconoscere, oppure ce la potevano dare, come dire, progressivamente, passare, che ne so, al 40% nel 2016, al 60%, ok. Perché ha un significato questo provvedimento da noi richiesto? Perché una cosa sono le imposte sulla ricchezza accumulata per trasferire potere d'acquisto dallo Stato al futuro, ma tassare i fattori di produzione, lo so, però Mariano, il fatto di esistere è un casino. In questo aggiungo, i due delegati dell'ANCI, da cui ieri ci siamo informati se avessero visto i testi, a garanzia del fatto che con l'abrogazione di Mutasi il governo dice, spergiura, che c'è la copertura totale delle risorse che vengono meno ai comuni, ma senza imposizioni aggiuntive. Ecco, su questo senza imposizioni aggiuntive, tu sai che in realtà una delle ipotesi è quella che lo Stato giri ai comuni per ripianargli le risorse che vengono meno la quota statale su IMU, beni strumentali, capannoni, alberghi, eccetera, non priva della possibilità che sulla quota statale ci sia un aumento di aliquota. Quindi altro che deducibilità, il problema è che lo Stato, esattamente sulla cosa che dici tu, c'ha una partita in corso con i comuni, per così dire. Ma questa partita però è giocata in modo complicato e anche perverso, perché io insisto sul fatto che se vogliamo un minimo di federalismo, se non lo vogliamo lo si dica, ma se vogliamo un minimo di federalismo ci vogliono tributi propri dei comuni. Allora, tu hai introdotto, e ti ringrazio, un tema strategico che oltre a fine della revisione di spesa, ritorno al deficit, scelte fiscali fatte su fiducia e consumi più che su PIL potenziale, a dire la verità. Esatto. Tu ci hai aggiunto un'altra cosa vera che coincide con la riforma della Costituzione. Fine del finto federalismo, però fine anche della possibilità dell'autonomia, perché i Mutasi va esattamente in questa direzione. Ma è brutta questa cosa. Lo so, però fai pari con il testo della nuova Costituzione che riaccentra molto le competenze. Torniamo al 1968, al 1969, cioè fino alle fine regioni. Questa è una cosa che però va dibattuta. Sono d'accordo. Cioè anche, come dire, non voglio fare il populista, però voglio dire, i cittadini si dovrebbero esprimere su una cosa di questo genere. Cioè, non possiamo modificare il senso del nostro stare insieme con piccoli provvedimenti che svuotano i tributi propri degli enti decentrati e poi a un certo punto dice: beh, abbiamo aggiustato il titolo quinto, non avete le competenze, i tributi ve li abbiamo tolti. Ciao, a questo punto torniamo al rimborso a piedi lista, al piedi di federalismo. Però questo sì che sarebbe un deficit democratico. Esatto. Io sono a favore del governo, cioè, ho grande simpatia per questo governo, però questo è un punto secondo me che bisogna sviluppare un po' il dibattito su questo, perché è grosso. Hai perfettamente d'accordo. Noi nel quarto d'ora successivo ne sviluppiamo un altro, perché questo governo aveva fatto scrivere a molti giornali, anch'io ho scritto sul Mattino, io non ero molto convinto, però dal Mattino mi dicevano: noi siamo convinti, il governo avrà una parte strutturale sul sud. Io dicevo: al MEF mi dicono di no. L'avrà, ci dicono di sì. Non c'è nel MEF. Non c'è, infatti. Almeno non c'è. Almeno che non sia nei 5 miliardi. No. Di stimolo alla flessibilità non europea. Non ci credo minimamente. Ma se mancano ancora 3 miliardi per le coperture di quello che c'è già là dentro. Quindi... Ah, ecco, voi siete arrivati anche a questa conclusione. Sì, sì, mancano 3,1 miliardi. Che non mi tornano i conti. No, sono 3,1 miliardi che mancano. Ma per di più, in una delle bozze beccate ieri Girari c'è esplicitamente scritto: risorse ancora da reperire. Tant'è che ieri i colleghi chiamavano Basso, il portavoce del ministro, e il portavoce del ministro diceva: quindi per dirti, hanno tentato di spiegarci attraverso il fisco telematico. Attraverso il fisco telematico fate 3 miliardi in un anno, su, per favore. Quindi, per capirci, sì, che sarebbe un bel miracolo. Ah, no, questo è il miracolo di San Gennaro. Però siamo ancora a quello, Mariano. Però grazie per averci intanto segnalato che c'è anche questo elemento fondamentale del federalismo. Addio, Bruno da Torino. Bruno da Torino, come la pensa della legge di stabilità, per quello che ha capito, Bruno? Pronto? Eccoci, dica. Ecco, senta, io poi volevo solo limitarmi a dire qualcosa sulla tassa della casa. Dica. Allora, la tassa sulla casa, secondo me, un paese civile dovrebbe sempre avercela. Se in Italia si voleva, e soprattutto perché in Italia abbiamo anche un abusivismo che è micidiale. La cosa che volevo dire, se volevamo essere equi, bisognava mettere una tassa proporzionale, diciamo 60 metri, i primi 60 metri quadri, io non ho l'ipotesi, esenti, e poi ogni metro successivo si pagava una tariffa da stabilire. È una cosa molto semplice. E lo so, Bruno, ma lei sa che il catasto non si ispira a questi criteri di estrema semplicità, per così dire, cioè, ce ne sono di più complessi. Naturalmente un'altra ipotesi può essere quella di incrociare i dati di un catasto che resta però arretrato, e quello è un grande problema di sfondo, con quelli relativi al reddito e numerosità della famiglia dei proprietari. Sono tante le possibilità. Per quello che mi riguarda, levare i mutasi su prima casa a tutti, ripeto, per me la questione è che la priorità nell'allocazione delle risorse di incentivo fiscale, di sgravio fiscale, doveva essere concentrata su poste che avessero il maggior calcolabile effetto sull'innalzamento del PIL potenziale. Strutturalmente significa nel medio lungo periodo. La logica dei mutasi è una logica diversa, è una logica A, elettorale, B, fiducia, consumi, non risparmiati in attesa di nuove tasse come è avvenuto in questi anni cari italiani, consumante di più. È che Bruno ci invita al buon senso, ma insomma, per il momento devo dirvi solo che ci torniamo tra un minuto a occuparci il sud che manca nella legge di stabilità e ancora con le vostre telefonate. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta della Belva. Eccoci tornati in diretta, 11:37 primi, 16 secondi, compare dei conti da Belva, oggi informazione ristretta, però con Oscar Giannino che è qui e Mario Seminerio che è collegato, vero Mario? Buongiorno. Eccoci qua. Allora, continuiamo con la telefonata, adesso andiamo a un punto che nella legge di stabilità invece manca, però erano stati loro stessi ad annunciarlo, cioè quello del sud. Avevano detto finalmente la svolta, il cosiddetto master plan, una cosa concordata con le regioni, poi le regioni le chiamavi e dicevi: ma che cosa hanno concordato con noi? E infatti... pare che poi non ci sia niente per il sud, però nei giornali del sud, nell'opinione pubblica, se ne è parlato molto in questi mesi, come una grande speranza finalmente in arrivo con Renzi. Arriva, paradossalmente io ricordo a tutti che gli 8 governatori del sud, tutti del PD, sono quelli che depositano i quesiti alla Corte Costituzionale contro il governo. Che gli italiani siano... Che succedeva? È partito qualche cosa su un audio. Quindi nel frattempo c'è anche un problema apertissimo nel PD, perché ripeto, i presidenti di tutto il sud del PD hanno depositato i quesiti in Cassazione contro il riaccentramento delle competenze in materia energetica e così via. E in questo quadro, tra pochissimo, esaminiamo la questione con il professor Gianfranco Veschi di Esti, che intanto saluto e ringrazio di essere con noi. Insegna economia all'Università di Bari. Grazie professor Viesti. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Sentiamo subito un secondo un ascoltatore, Roberto da Bergamo, che era rimasto da prima in collegato. Roberto, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Piacere parlare con lei. Dica. Volevo risolvere però dell'Imutasi, però si sente una parola su due, e quindi o mi fa rapidamente capire o dobbiamo richiamarla. Glielo dico, dovrebbe sentire bene. No. No, e quindi Roberto, intanto sentiamo il professor Viesti, perché professor Viesti, lei ha scritto anche lei un po' sul Mattino, io pure, ho scritto dicendo forse ci siamo, il governo ha fatto capire che c'è qualcosa sul sud che potrebbe interrompere un silenzio di anni di riflessione e di interventi, e i gap del sud si sono ovviamente resi ancora più gravi. Invece pare no. Lei è sorpreso e soprattutto perché no, secondo lei, professor Viesti? Ma abbastanza sorpreso, perché l'ha tirata fuori Renzi questa questione. Ha convocato questa direzione del PD il 7 agosto, ha annunciato questo master plan, grande iniziativa del partito, poi si è sciolto tutto come la neve a primavera. Perché non saprei bene dire, mi pare ad occhio, per quanto capisco io, che il governo sia attentissimo al consenso di breve. E quindi evidentemente questo è un tema che porta risultati solo nel medio-lungo, non porta molto consenso, comunque non è prioritario. È una valutazione certamente di natura politica quella che è stata fatta. Ah, ecco, siccome concordo molto con questo che dice, anch'io penso che sia questa la vera ragione, perché altrimenti non riuscirei a capire perché chi ricorda, io stesso ho scritto sul Mattino andandomi a rileggere quello che aveva detto il 7 di agosto, la direzione del PD, le promesse, le cose eccetera eccetera, dopodiché mi sono detto evidentemente c'è una questione di priorità, però a quel punto professor Viesti, che possiamo inventarci perché la riflessione sul fatto che se non ci si dà un quadro nuovo e diverso, ma che rimette al centro la questione del sud, in ogni caso la prospettiva di un paese che torna a crescere al 2% diventa ancora più azzardata? Beh, bisogna cominciare dall'inizio, ahimè, e cioè cominciare innanzitutto dalla politica, e quindi quello era la sede opportuna, no? Il più grande partito italiano che si occupa di questa questione, perché l'Italia è molto cambiata, per molti versi in peggio, è in difficoltà, e quindi bisogna ripensare alle due grandi braccia dell'azione pubblica, i grandi servizi, i diritti di cittadinanza, le grandi voci di spesa pubblica, istruzione, assistenza, sanità da un lato, come garantire servizi con una spesa buoni, con una spesa minore, soprattutto al sud dove i servizi sono di qualità inferiore. L'altro lato, quello dello sviluppo, investimenti, infrastrutture e servizi che vengono dalle infrastrutture, binari e treni, certo. E poi politica industriale dell'innovazione. Diciamo, il sud non è, lo diciamo sempre, una pagina diversa, è la pagina più difficile del grande discorso nazionale, del grande romanzo del paese. Io temo che questo non avere idee per il sud sia una brutta notizia non solo per i meridionali, perché quello che possa nascondere è che in realtà ne abbiamo non molte per tutto il paese. I tempi sono difficilissimi, le materie sono complicate, ma almeno proviamoci. Allora, ringrazio il professor Viesti per la secca e chiara idea della ragione per la quale questo intervento promesso, su cui aveva giocato come una delle autostrade su cui ricostruire il rapporto che è molto complicato tra il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Regioni del Sud, che non appartengono all'area renziana ma soprattutto lo contestano apertamente e addirittura istituzionalmente sono l'anima del no preventivo alla riallocazione delle risorse tra centro e periferia, che è l'asse portante del titolo quinto. E quindi secondo me ha delle ripercussioni anche nel PD per il Presidente del Consiglio questa accelerata a cui segue improvvisamente la sparizione del tema dalla legge di stabilità. Staremo a vedere, grazie professor Viesti. Allora torniamo da Roberto da Bergamo per vedere se intanto il suo collegamento funziona meglio. Roberto, non funziona Roberto, abbiamo Cassiano da Roma? Sì? Sì, dica. Senta, io chiamo per quanto riguarda il canone RAI sulla bolletta, della sì, luce. Sì. Volevo dire, ma perché la RAI non usa un sistema come Sky o Mediaset? Che uno vuole vedere il programma, paga e vede quel programma. Così se eliminerebbe gli evasori. Cassiano, questa giustissima battaglia, ogni anno io faccio le trasmissioni portando la gente a spiegare come funziona in Gran Bretagna, i tecnici che spiegano, ma certo che la RAI potrebbe farlo, e così via. Però che cosa implica in realtà? Implica per lo Stato recedere dall'idea che quella che ti chiedono di pagare non è il canone RAI, ma è una tassa sul possesso di apparecchi di ricezione, Richiede davvero l'idea che la RAI si voglia misurare con il mercato dei suoi clienti, e anche questa roba la RAI non la vuole fare, la politica non la vuole fare, la politica vi dice e vi ripete dalle Leopolde a tutte le feste di partito che cambiano il sistema, che ridefiniscono la missione del servizio pubblico eccetera eccetera, la verità è che questa roba non capita, sono come i tagli di spesa, non capita, non la fanno, non scelgono né la strada scelta da alcuni paesi europei di ridefinire una missione di servizio pubblico e a quel punto levare gli spot però dalle reti che fanno servizio pubblico, come sono le reti di BBC che fanno servizio pubblico, non BBC World, dove non ci sono gli spot, il canone è più alto, ma ti chiedono, tu te ne servi di queste reti? Se tu dici no, abbiamo fatto la trasmissione, in autodichiarazione, non lo paghi il canone, sei sottoposto alle verifiche, ma non lo paghi, e questa è la strada di chi sceglie missioni di servizio pubblico senza spot. Poi c'è la strada di chi ha scelto servizio pubblico che resta però con gli spot e commerciale, e hanno abolito il canone, lo stesso in Spagna, in Olanda, in un mucchio di altri paesi. Noi invece teniamo la pubblicità, non ridefiniamo la missione di servizio pubblico, non abbiamo un canone perché non vogliamo che gli italiani scelgano se hanno bisogno della RAI o meno, lo abbiamo in tassa di ricezione, con apparecchi di ricezione, lo mettiamo adesso questa tassa, la anneghiamo in una tariffa che si paga invece a consumo, quella dell'energia elettrica, e rendiamo i gestori del servizio elettrico i sostituti di imposta, che direttamente dice l'articolo della legge di stabilità che ho in mano, entro 30 giorni verranno vincolati al pagamento in quanto sostituto di imposta, e quindi anche a pagare poi gli interessi di mora, le violazioni allo Stato, se non danno allo Stato questa roba qua. E a me la cosa che è un po' indigna è che venga da chi alla Leopolda per anni aveva fatto parlare migliore intelligenza del paese sul fatto basta la RAI dei partiti, ridefiniamo la missione di servizio pubblico. Ma c'era anche un amministratore delegato e direttore generale futuro della RAI che ha parlato alla Leopolda. Capito. Tutte affinità elettive queste, no? Esatto, affinità elettive che si ritrovano, però progetti diversi da quelli dichiarati, diciamo così, almeno. Io non voglio gridare su queste robe, però è deludente vedere che ogni volta finisce così. Guardate, Renzi, gli abbiamo chiesto ieri, siete sicuri che non ci saranno impugnative? Il testo è al riparo da ogni impugnativa. Il testo che ho qua nella bozza sul computer, secondo me non è al riparo da impugnative. Io invito tutti quanti in ascolto a riflettere bene, faremo altre trasmissioni se c'è la possibilità di impugnarla questa cosa, ma non per fare la vandea antifiscale, ma perché introduciamo nella complessa vita italiana un'altra ircocervata, un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra. Continuiamo ad avere strane tasse che non hanno uguali nel mondo, perché nel mondo esiste il canone, e in tariffe, rendendo terzi soggetti responsabili della riscossione e delle sanzioni, e quei soggetti dovrebbero loro sostituirsi alle banche dati che non hanno loro per dire quale utenza elettrica sta in una prima casa, in una seconda casa, di un esercizio commerciale, eccetera eccetera, e loro diventano il discrimine sul quale lo Stato esercita la pretesa assoluta di avere però i soldi pronta cassa subito. Tutti i mestieri che i gestori elettrici non sono votati a fare, siano essi a controllo pubblico o privato e quotati in borsa, tutti oneri aggiuntivi, rischi aggiuntivi, tutti in capo a un terzo soggetto. Lo Stato se ne lava le mani e vi dice che la colpa è vostra che non pagate. Ma a me sembra un cortocircuito mentale, a dirvi la verità. Però questa è l'opinione mia. Roberto da Bergamo. Eccoci finalmente. Eccoci, allora. Niente, il tema prima scrivevo parlare era appunto l'IMU-TASI, come avevo annunciato. E avendo fatto io l'assessore a bilancio per qualche lustro, mi interessava capire dallo Stato esattamente come intendeva rifondere i comuni, cioè il tecnicalismo. Guarda, Roberto, te lo dico comuni, subito: ovvero, problema posto ieri. Problema posto. Aspetta, Roberto, abbiamo poco tempo. Te lo dico subito. Ieri, la delegazione ANCI ci ha confermato il microfono. Il testo non lo abbiamo. Nel bozza legge stabilità che abbiamo noi, che ce ne occupiamo e che il governo ci dice non essere ufficiale, non c'è scritto nell'articolo dove c'è l'abrogazione di IMU-TASI. La questione è ancora aperta, questo è il punto vero, perché siccome mancano ancora 3 miliardi alla copertura della versione ristretta della legge di stabilità, Roberto, non lo sappiamo. Nessuno è in grado di dire attraverso quale meccanismo, se è rifusione di cassa, se è parte, quota parte del gettito dello Stato su IMU, beni strumentali di impresa, alberghi, forse anche con un'aliquota un po' più alta dell'attuale, girata ai comuni, oppure come sarà. Siccome non lo sappiamo e non lo sappiamo neanche come avverrà, in che proporzione avverrà lo sblocco del patto di stabilità per i comuni che sono in attivo e che hanno cassa, non ci resta che aspettare. Caro Roberto, intanto noi ci sentiamo tra un minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta della Belva. Eccoci tornati in diretta, Conti della Belva, l'ultima parte. Lo sapevo che una raffica di SMS partiva sulla faccenda del canone Rai. Ragazzi, norma alla mano, ci occuperemo di dare assistenza pubblica, per così dire, di consigli a chi già adesso segnala, dice no, io ho più utenza elettrica ma non ho il televisore. Ci avrete un computer, ci avrete un apparecchio di ricezione, sapete che la questione non è solo il televisore, quindi attenti perché i tempi saranno strettissimi. La Rai ha bisogno di incassare subito, questo è quello che si legge nella tempistica dell'articolo abbozzato che abbiamo nella nostra cosa, e la riforma della Rai non la vedrete mai. Vabbè, detto tutto questo, il grande rinnovamento italiano, abbiamo con noi per la rubrica finale il nostro Renato Cifarelli. Renato, come stai? Bene, tu Oscar? Sempre al lavoro. Mi abbiamo lasciato da solo oggi in studio. No, guarda, io sono... E Mario collegato. Mario collegato è un pilastro e caro Alberto, ohimè, è in spirito. Io resto ancora incazzato ieri perché avere la possibilità di Renzi che viene da te e poi noi pasticciamo a fargli intervista, guarda, non la butterò giù chissà per quanto tempo. Però detto, non l'ho sentita, metto le mie colpe, sai. Che sono a Bari in fiera. Quindi... In fiera. Allora, che cosa ci proponi per della serie non si può fare come esempio? Oggi ce n'ho una fila infinita. Allora, la prima cosa è che mi dispiace per le mie figlie, vista la legge di stabilità, perché gli stiamo lasciando un sacco di debiti in più. Però, certo. Quello è una cosa. Mentre invece una cosa che mi ha colpito stamattina, che ho letto sul Sole 24 Ore, è che hanno abbassato per legge le somme rimborsabili per i processi lunghi. Quindi invece di mettere a posto la giustizia, abbassiamo i rimborsi, che è un metodo all'italiana per fissare le cose. Però la notizia della settimana, secondo me, è quella che hanno tolto il bonus per il rientro dei cervelli. Tu sai che il rientro dei cervelli era una delle cose su cui hanno basato un sacco di strombazzature per il rilancio della ricerca in Italia. Sì, anche quello è il tema dominante in convention come quella di Vedrò che faceva Rigoletto e poi quelle della Leopoldo. Quello che succede, come al solito, in Italia è che ha lavori in corso, quindi il bonus deve durare 3 anni. Poi si accorgono che non hanno soldi e quindi cosa succede al terzo anno? Che il bonus sparisce. E quindi i cervelli che sono rientrati in Italia pensando di guadagnare anche il terzo anno una certa cifra, le aziende hanno investito sui cervelli per farli rientrare per godere del bonus, il terzo anno, come sempre, cosa succede? Cambiano le regole del gioco. E questo purtroppo è quello che fa fermare gli investimenti in Italia, perché un fisco che ogni anno cambia non permette alle multinazionali di venire in Italia con una certezza del diritto, ed è una delle cose peggiori per l'Italia. In compenso poi quello che facciamo, ho letto almeno nella legge di stabilità, tra tanti annunci, è che facciamo un 500 più 500, quindi 500 specialisti al Ministero dei Beni Culturali. Credevo fosse una norma a sostegno di Marchionne che mi era sfuggito. No. Parliamo di 500 persone specialisti al Ministero dei Beni Culturali, da assumere a tempo indeterminato, con delle competenze che secondo me andrebbero bene con un bel tempo determinato, in modo che poi loro si tengano aggiornati. Perché poi cosa succede? Entrano nei ministeri, può anche darsi che abbiano le competenze quando entrano, poi si siedono al ministero, sono a tempo indeterminato e non sono così sicuro che si terranno aggiornati. E poi invece abbiamo 500 cattedre da dare a persone di rilievo internazionale, di prestigio, eccetera, eccetera. Vedremo poi cosa... Andremo magari, ecco. E siccome sono su chiamata, vedrai quello che susciteranno come polemiche da parte del sindacato, eccetera, eccetera, perché sarà il bis delle nomine di Franceschini ai 20 musei nazionali con gli stranieri, perché queste 500 chiamate a cattedra. Poi potrebbe essere un'idea, poi quando ne avranno chiamati un po', di andare a vedere un po' di curriculum e fare un piccolo studio di noi belve per vedere se effettivamente sono di prestigio internazionale o di prestigio in quanto amici degli amici. No, ma la 500 sono tante, eh? Cioè, a me ha colpito molto questo numero del 500. Nel frattempo hai ragione tu, dire tornate in Italia, vediamo degli incentivi, poi al terzo anno ve li leviamo, è una cosa veramente da morti di fame. No, ma questo fisco di morti di fame. Il metodo è quello che fa impazzire le aziende. Non vi fidate, perché lo Stato ha sempre fame, perché lo Stato ha sempre sete, perché lo Stato, quando è così, vuol dire che pensa a se stesso e quindi vi fotterà. Ecco, cari amici, la sintesi però non è questa, la sintesi della legge di stabilità. Questa legge di stabilità noi abbiamo sperato di ragionare con voi per farne capire alcune scelte sulle quali abbiamo molti, molti dubbi. Io ringrazio ancora Mario Seminero, grazie Mario. Grazie a voi. Grazie Renato Cifarelli, continuate su Radio 24, appuntamento con me domani lunedì alle 8:15, naturalmente con Attenti a noi due con Alessandro Milan e poi il pomeriggio con la versione di Oscar. Finita è la festa. Stringiamo